Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, oggi iniziamo da una notizia, non so dirvi se buona o cattiva. Prendiamola come un dato di fatto: per chi li ha superati o raggiunti, la maturità arriva a 40 anni circa. Insomma, se la prende comoda. Gli scienziati sono riusciti a dimostrare che la corteccia prefrontale continua a cambiare forma tra i 30 e i 40 anni, il che fa pensare ad una continua maturazione cerebrale, e per alcuni versi questo potrebbe fornire le basi neurofisiologiche di quello che ormai viene conosciuta come sindrome di Peter Pan. Gianni! Gianni! Gianni, svegliati qui! Evviva! Salute, Peter Pan! Io sono Michele. Io sono Gianni. Onoratissimo. Piacere. Che stavi facendo? Ascoltavo le tue fiabe. Le mie fiabe? Ma parlano tutte di te. Certo, per questo mi piacciono. Io le ripeto ai bimbi sperduti. Bimbi sperduti? Oh sì, adesso ricordo, sono i tuoi seguaci. Sono felice che tu sia venuto qui stasera. Non ti avrei mai conosciuto. Perché? Perché da domani dovrò crescere. Crescere? Questa è l'ultima notte che passo qui. Vuoi dire che non racconterai più fiabe? No, non mi va. Vieni. Dove vuoi portarmi? Nell'isola che non c'è. L'isola che non c'è? Sì, laggiù non crescerai mai. Chiamateci 800 24 00 24. Oggi vogliamo parlare di chi ha deciso, forse non si è accorto, che pur non essendo più un ragazzino vive e si muove come tale. Crescere fa un po' paura, è faticoso, no? Diciamocelo, senza contare che l'adultità ha meno appeal dell'adolescenza. In questi giorni nelle sale cinematografiche c'è il film di Paolo Genovese che sta riscuotendo grande successo, Immaturi. Lo avete visto? Vi siete magari riconosciuti in uno dei personaggi o ci avete riconosciuto qualcuno dei vostri amici o forse vostro figlio? Per chi ancora non l'avesse visto, stiamo parlando di un film che racconta la storia di un'intera classe di ex liceali che sono chiamati a ripetere l'esame di maturità, oddio, per colpa di un problema burocratico. L'esame però diventerà l'occasione per confrontarsi con il loro passato e il loro presente. Un cast di attori famosi: Ambra Angiolini, Rick Memphis, Barbara Babulova, Raul Bova, Luca e Paolo, e una colonna sonora firmata da un cantautore italiano della stessa generazione dei protagonisti. E per quelli come noi che si sentono insicuri c'è soltanto una risposta: a volte siamo un po' immaturi, come il sole verso l'alba che fa luce ma non scalda. Noi che andiamo contro vento ma che in fondo il vento non ci sfiora mai. Saluto Alex Britti, benvenuto Alex, grazie. Figurati, bentrovati, ciao, ciao a tutti. Alex, tu canti, è difficile cambiare, per quelli come noi che si sentono insicuri c'è soltanto una risposta: a volte siamo un po' immaturi. L'abbiamo ascoltato proprio ora. Tu dimmi la verità, ti sei un po' riconosciuto nei personaggi, nelle storie raccontate nei film di cui hai firmato la colonna sonora? Beh sì, è un po' anche colpa, se vuoi, no, come dire, non colpa, però di questo periodo storico dove noi quarantenni possiamo permetterci di apparire come quelli che magari una volta erano i trentenni. Abbiamo rotto un po' le barriere, anche se vuoi un po' retoriche, no? Di dover apparire in un certo modo, di doversi comportare in un certo modo. Usciamo un po' di più allo scoperto e quindi abbiamo questa apparente immaturità che poi a volte si scontra veramente, a volte magari è soltanto apparente. Alex, ma secondo te crescere fa paura? Ti fa paura? Non lo so, io ho dovuto essere maturo abbastanza presto nella vita, quindi non mi sento nessuna paura della maturità. La maturità per me è la normalità, insomma, sarebbe più strano il contrario. Forse proprio perché a volte uno deve crescere presto, che poi magari ti puoi, insomma, una volta poi sistemate un po' di cose puoi permetterti il lusso di fare un po' il giocherellone quando sei grande. Ci sono passaggi importanti nella vita di tutti noi, di solito li contiamo a decenni. Tu che sei un artista li hai in fondo raccontati nel tuo ultimo CD, dove raccogli proprio i successi degli ultimi tuoi 20 anni. come ti sembra di essere cambiato? Ma è cambiato quello che è cambiato anche nella vita. Il passaggio tra i 30 e i 40 anni è un passaggio importante, come ogni decennio, no? E quindi è cambiata un pochino, diciamo che c'è stato un po' un cambiamento artistico, così come c'è stato un cambiamento nella mia vita, un cambiamento dell'essere. E in che cosa te ne accorgi, dando un nome a questo cambiamento? Che cos'è? No, non lo so, forse un po' più di riflessione. Magari alcune canzoni, non tutte, però alcune canzoni dei primi tempi erano un po' più immediate, poi col passare del tempo magari invece sono un po' più ricercate. Se parliamo per decenni, cioè dai quando sei bambino fino a 10 anni, poi dai 10 ai 20, il decennio è un momento importante. È vero che a volte uno si deprime, oggi va di moda deprimersi col crescere, va di moda avere paura della maturità, della vecchiaia. Mentre invece penso che ogni decennio abbia le sue cose buone e le sue cose brutte. Adesso che ne ho 40, sto tra i 40 e i 50, sono nel decennio che però non ho più certe cose di quando avevo 30 anni. Però ce n'ho, cioè non ho più quelle, però ho delle cose in più che prima non avevo. Ormai allora Alex sei grande, non sei un bamboccione, hai iniziato a vivere da solo da molto tempo e sei diventato anche un cuoco raffinato, o perlomeno sei una persona molto attenta a quello che porti in tavola. Dato che siamo in un programma di salute, ti chiederei di raccontarci così un tuo stile alimentare. Che cosa mangi, ad esempio, quando devi affrontare un concerto o devi entrare in uno studio di registrazione? Ma io prima di un paio d'ore, non subito prima, però un paio d'ore prima di andare sul palco mangio un po' di riso. Mangio del riso bianco, oppure se non sono lontano da casa mi porto delle mousse che mi faccio a casa da solo. Ah, le fai tu? Esattamente. E ad esempio che mousse prepari? Ma ad esempio zucchine e melanzane, che cioè, è buonissima, una bella accoppiata. Le faccio tipo bollite, le faccio nel vapore, ho un forno al vapore a casa. Sì. Fatti le verdure nel forno al vapore, poi le prendi, le metti nel frullatore, le frulli con la loro stessa acqua, senza usare condimenti né niente, solo un pizzico poco poco di sale se vuoi, ci mischi il risotto, cioè poi ci mischi il riso bianco, quindi viene una sorta di cremina, di magari allunghi con un goccetto di latte di soia, così ottieni un risotto buono, che però è divertente. Che invece di solito le cose, quelle da salutista, sono un po' noiose. Fanno sì, bene. Hanno poco appeal, come si dice. Invece questo sembra un risotto proprio mantecato da un vero chef. La ricetta invece ce la dà Alex Britti, provare per credere. Alex, ti saluto, ti ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Ciao. Ma mi sa che abbiamo fatto un buco nell'acqua, lui non mi sembra un Peter Pan, ma qualcuno di voi all'ascolto ne conoscerà pure uno, no? Avrà un sospetto. Io conto sulle mie amiche all'ascolto, perché molti di noi hanno un'abilità straordinaria, innata, a calamitare intorno a sé uomini che si sentono e si comportano come eterni ragazzini, pericolosini, aggiungerei io. E spero che qualcuno tra i miei ascoltatori si faccia avanti per raccontarci avventure e disavventure del moderno Peter Pan. Intanto saluto Alberto Pellai, che occupandosi di adolescenti veri, quelli che hanno proprio l'età anagrafica per essere definiti tali, la sa lunga anche su quelli che adolescenti rimangono nonostante gli anni. Alberto, ciao. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, da dove si riconoscono? Ma si riconoscono gli adolescenti veri dal fatto che loro hanno proprio diritto all'immaturità e la loro età è una sorta di palestra, uno spazio di laboratorio dove provare tante cose diverse e mettere a punto tante identità diverse fino poi a scegliere quella che decideranno di calzare come un vestito per la loro adultità. Insomma, possono davvero permettersi di essere tutto il contrario di tutto, perché questa è l'età della sperimentazione. Diverso se questa cosa qua succede invece a un quarantenne, a un cinquantenne che non è mai riuscito a decidere chi davvero vuole essere e cosa vuole fare nella vita. Ti posso dare un esempio, proprio una coppia che ho visto qualche settimana fa, e di fronte alla decisione di sposarsi o non sposarsi, perché questo poi era un po' il tema, lui era molto resistente, e allora io ho fatto questa domanda: ma quanti anni ha? Mi risponde 42. E quindi gli dice: forse ancora non è il momento. E quindi alla domanda successiva: ma secondo lei quando è il momento? Qual è l'età giusta per? Ecco, lì è rimasto completamente spiazzato e Il concetto è questo, che tutti in qualche modo rimandano le cose che ti fanno abitare l'adultità, perché stare in una terra sospesa, in una terra dove nulla è per sempre, probabilmente è meno ansiogeno. Quindi però mi piacerebbe, Alberto, sapere dai nostri ascoltatori per che cosa si sentono pronti, maturi, per che cosa invece si sentono ancora non adeguati, immaturi, ancora un po' acerbi. Voglio leggervi subito però un sms di un nostro ascoltatore molto giovane, mi scrive Fabio, 23 anni a luglio, si sposa l'anno prossimo, mi laureerò in, scrive, in magistrale in economia, crescere costa fatica ma mi sento realizzato e felice, e ci saluta. Stefano da Pordenone invece ci sta chiamando all'800 24 00 24. Stefano, buongiorno. Buongiorno, io volevo solo portare una testimonianza molto banale. Allora, io ho 36 anni e 2 bambine e tutti i miei amici, quando ci parliamo insieme, mi prendono più o meno in giro perché io gioco con la PlayStation. E io non ci trovo nulla di male, nel senso che comunque è una maniera, è un tipo di evasione che però, come dire, secondo me rispecchia il famoso detto che il miglior modo per crescere è rimanere un po' bambini, perché comunque è una cosa che permette di staccare. Ma certo. E cose del genere, anche perché poi gli impegni di lavoro sono tanti, in famiglia sono tanti, ma alla fine non è che il fatto di magari giocare con un videogame possa per forza definire una persona. No, poi non toglie nulla a nessuno. Certo, Stefano, io non la criticherei senz'altro. Sono dalla sua parte, Stefano, prendiamoci un po' anche degli spazi per noi in cui possiamo ritrovare le cose che ci piacevano anche quando eravamo ragazzi. E che sarà mai, Alberto? Sì, io penso proprio che ognuno nel proprio tempo libero deve coltivare quelle che sono le proprie passioni. E credo che il problema sia se una persona non fa altro che giocare alla PlayStation, allora lì chiaramente non sono scattate delle funzioni evolutive e quindi la PlayStation diventa una sorta di sintomo di immaturità, ma non se la PlayStation è tenuta e relegata in un angolo che è l'angolo del mio divertimento e del mio piacere. Abbiamo Massimo dalla provincia di Salerno, 800 24 00 24, vi rilancio la domanda: per che cosa e per chi vi sentite pronti e invece in quale situazione della vostra vita vi sentite ancora un po' come delle mele acerbe, avete ancora bisogno di tempo. Massimo. Salve, buongiorno. Lei è un Peter Pan? Sì. Ecco il primo Peter Pan della nostra trasmissione. Devo essere sincero, c'ho un amico che sul cellulare mi ha nominato proprio Peter Pan. Ah, quindi perché quando legge Peter Pan sa che è lei, Massimo. No, sono io, esattamente. Perché? Perché lui dice che c'ho sempre questa voglia di rimanere fanciullo, di divertimento, per cui non ho mai passato la demarcazione della crescita, che è in qualche modo nel nostro gruppo definita come il matrimonio, la fase del matrimonio. Adesso mi ritrovo proprio nella fase cruciale, nell'ultimo giorno del come il bambino prima in trasmissione del film. Sì. Che sta crescendo, per cui alla fine pur avendo come il come precedentemente detto ci sono una serie di responsabilità sul lavoro che comunque danno il segno della maturazione, però ci sono alcune cose, tipo i rapporti familiari con la famiglia e con l'eventuale figlio, sì, che mette paura, che in qualche modo non ci fa crescere, mi fa, almeno personalmente me, mi fa mettere in condizione di passare oltre. Per cui è ancora un po' lì, no? Col piedino tra una fase e l'altra, che poi forse non sono due fasi, due tempi della nostra vita così lontani, così diversi. Uno può contaminare l'altro, che dice Massimo? Certo, no, anzi, se si riescono a contaminare uno con l'altro, meglio, no? Indubbiamente meglio. Allora, Massimo, posso chiamarla anch'io? Saluti a Peter Pan? Grazie. Come il suo amico? Stia bene, certo. Peter Pan. Grazie. Alberto, arrivano tantissimi messaggi che poi vi leggerò. Ad esempio Luca da Milano mi scrive: io a 38 anni gioco nei boschi vestito da marina a fare la guerra, vale per essere un po' infantile? Un altro ascoltatore mi scrive: credo di essere il prototipo del Peter Pan. Noi abbiamo già avuto un Peter Pan vero, così proprio chiamato anche dagli amici, ma non vi posso chiamare perché devo finire la partita a Risico. Mario, 44 anni. Alberto, allora è meglio un po' fare un po' di chiarezza? Allora, diciamo che ciascuno di noi deve continuare a coltivare il bambino che c'è in sé e che quindi è un po' la parte, la zona del piacere, la zona dove noi sentiamo di poterci abbandonare a un'area che non è quella del dovere, area del dovere che invece nell'adultità ci richiama fortemente, occupa gran parte del nostro tempo e delle nostre energie. Rispetto a Massimo, però, io mi sento di dire che il problema di Massimo è che quando si deve fare un gran salto in avanti nella vita, quindi il matrimonio, la paternità, la maternità, bisogna proprio un po' avere essere come dei tuffatori, cioè ci si butta in un grande vuoto e questa cosa ci spaventa. Noi abbiamo paura nel fare questi grandi salti di perdere le solide sicurezze alle quali ci siamo ancorate e questa paura ci blocca fortemente. Il pensiero adulto però deve aiutarci a dire che voglio scoprire zone della vita di me che ancora non conosco, no? E che oltre che un po' paurose possono essere straordinariamente soddisfacenti e questa diventa subito un pensiero che guida verso il cambiamento che ci fa crescere. Angelo da Padova, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei Angelo, anche lei è un po' Peter Pan? Ecco, io praticamente ho la maglietta con scritto Peter Pan nascosta sotto la camicia. Che carino! In maniera costante, per cui in realtà 24 ore al giorno, perché poi ci dormo la notte con la maglietta sempre con scritto Peter Pan. Ho questa cosa qui, a 48 anni praticamente, riesco a essere molto maturo per quanto riguarda le responsabilità, dettate certo. Un po' dall'età, naturalmente dalle situazioni, sono padre di un ragazzo di 15 anni. Mm. Però, ho visto che è diventato subito serio quando sono padre di un ragazzo di 15 anni, e allora il Peter Pan ha avuto le responsabilità del caso, no? Certo. Però naturalmente il Peter Pan viene fuori spesso e volentieri tutti i giorni, per esempio quando sono a contatto con dei coetanei. Sì. E li guardo, li ascolto e li vedo vecchi. Cioè questa cosa qui, io dentro di me penso, ma io non sono come loro, io sono senz'altro più giovane, molto più propenso a stare con dei giovani con decine di anni a volte. Sì, è proprio, Angelo, lei mi racconta proprio un po' la voglia, no? La passione della vita, che non necessariamente significa immaturità. Noi abbiamo preso Peter Pan, è proprio questa voglia di esplorare, di non sentirsi seduti, di aver voglia di, come diceva Alberto, provare nuove sfide. Angelo, mi piacerebbe vedere la sua maglietta con Peter Pan, mi ho un'immagine, lei con la camicia, magari giacca e cravatta sotto il Peter Pan che ogni tanto salta fuori. Grazie Angelo per la sua chiamata. 800 24 00 24. Carmelo Lauricella mi sta dicendo che è tempo, scusate il ritardo, di andare ai mercati, poi il meteo, poi di nuovo insieme, a tra poco. Essere e benessere. In amore vince chi fugge. Una volta forse. Mi sa che tutti sono un po' arrugginita. Una sola con una fila dura. A proposito, io quando potrò fare sesso? Sono incinta. Non ti fare ingannare. Mangiano, pisciano e cagano. Cazzo, Marta, un figlio. Ma soprattutto cagano. Cagano molto. Non mi sento pronto. Vuoi che papà ti prepari il bagnetto? Sarebbe stupendo. Ci vuoi anche le paperenne? Non metterci tanta schiuma. Te la devi andare da casa. Ti si dice per te, per il tuo bene. Mi fai salire? Adesso. Magari che ci casca. Soffro di dipendenza sessuale di tipo ossessivo-compulsivo. Ti ho detto di no, la smetti di insistere! E oggi sono 52 giorni che non faccio sesso. Scusami, Zurdo, non si nasconde, Alfred. Invece me la metto. E perché? Perché avere una moglie ti dà una libertà con le altre donne che neanche te le immagini. Dal film Immaturi, che ci ha dato lo spunto per questa puntata, paura di crescere, voglia di rimanere ragazzi, stanno arrivando molte telefonate all'800 24 00 24 e tanti messaggi al 349 238 6666, così approfitto per ricordarvelo, di scriverci, che ci raccontano una piacevole e consapevole immaturità come ingrediente che aiuta ad affrontare meglio la vita. Allora io voglio salutare subito, volevo tenerlo un po' così all'ascolto, ma io sono molto felice che Paolo Genovese sia in linea con noi, regista di Immaturi ma anche sceneggiatore. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno a tutti. Ma senti, ma un successone dietro l'altro. È andata bene quest'anno, sì, sono molto contento, devo dire. In particolar modo per Immaturi, perché era più inatteso, diciamo, rispetto a Aldo, Giovanni e Giacomo. Sì, immagino. Però prima di dare la parola ai nostri ascoltatori che possono parlare con Paolo Genovese, abbiamo un regista in carne e ossa, cioè no, al telefono, io voglio provare a farvi sentire un'altra lettura del tema che stiamo trattando, dell'immaturità. In età adulta, il termine immaturità offende e ferisce. Ci rinfaccia puerili irresponsabilità, incoerenze, trasgressioni. Inaffidabile, per il senso comune, è l'uomo che presenti tali caratteri. Bisognoso di cure, è ritenuto chi scansa i ruoli e appuntamenti della maturità. E se invece l'immaturità fosse tutt'altro, degna d'elogio e ricca di pregi? Una nuova saggezza, un'altra virtù da riconoscere e interpretare, per viverne la leggerezza quando troppa maturità ci opprime. Che ne dite? Questa è la tesi di un libro del professor Duccio Demetrio, che viene spesso ospite della trasmissione. Si intitola L'elogio dell'immaturità. Ci offre una lettura diversa e stimolante del tema di cui stiamo parlando oggi. Per questo ho scelto questo libro come consiglio di lettura, che potrà come sempre ricevere a casa l'ascoltatore che ci invierà al 349-238-6666 o ci chiamerà all'800-800-24-00-24 per raccontarci, Alberto? Ma direi qual è la percentuale della sua formula personale di maturità e immaturità, cioè quanto siete maturi e consapevoli e quanto coltivate però dentro di voi una sana immaturità, che è quella leggerezza di cui abbiamo sentito parlare nello scritto del professor Duccio Demetrio. E voglio proprio chiedere a Paolo Genovese, proprio riprendendo un po' lo spunto del libro di Duccio Demetrio, se l'immaturità fosse proprio qualcosa da vivere, una nuova saggezza, un'altra virtù, come la leggi tu? Potrebbe essere? Ma sai, l'immaturità trovo che poi in realtà sia un qualche cosa che cambia continuamente, no? Non c'è mai il raggiungimento della maturità, siamo sempre immaturi rispetto a qualcosa. Io per curiosità, tu hai citato il libro, io cito il vocabolario della lingua italiana, che poi nella sua freddezza dà uno spunto interessante, che dice che l'immaturità è l'inadeguatezza o la mancanza di mezzi per affrontare le diverse fasi della vita. In realtà chi di noi si sente adeguato al 100% rispetto a ciò che gli capita? Probabilmente noi raggiungiamo la maturità a step, no? Raggiunta una maturità ce ne si presenta subito un'altra da raggiungere, quindi è sempre in movimento, non penso che si diventi mai completamente maturi, ovvero non si diventa mai completamente adeguati ad affrontare ciò che ci capita. Però sicuramente è uno stimolo, no? È uno stimolo quantomeno a confrontarci sempre con qualche cosa, cercare di crescere. Poi insomma il problema di tutti è quello di crescere. È quello lì. Vincenzo ci chiama da Caserta. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno. E già ha visto il film di Paolo Genovese? L'ho visto e mi sono immedesimato tantissimo. In chi? Ecco Paolo, questo è interessante. In chi si è immedesimato? Ma io penso, diciamo, non in una figura in particolare dei personaggi, però posso tranquillamente dire che io, appena sono entrato nel decennio dei miei 40 anni, ho avuto come una sorta di regressione che però mi fa stare benissimo, cioè io sono felice perché io vivo come un ragazzino. Sì. E spesso vengo tacciato, come stavate dicendo prima, in trasmissione di immaturità, però a volte è anche un complimento, cioè non è qualcosa, è qualcosa che alla gente piacciono gli immaturi, ecco. credo. Sì, poi piacciono molto, sì. Piacciono molto gli immaturi, perché il film sta avendo grande successo. Molti immaturi, Paolo, forse vanno e ci si identificano. Abbiamo dato proprio a questo termine una, così, un significato molto morbido, anche se vuoi, no? Sottolineando una vena creativa. E forse vanno anche molti maturi per prendersene un po' le distanze. Che dici, Paolo? A chi piace di più? Non si sa. Sicuramente penso sia abbastanza trasversale per il fatto che tratta diverse immaturità, no? I sei personaggi hanno ognuno a modo loro difficoltà rispetto ad affrontare qualche cosa della loro vita, sì. Sentimentalmente, che rispetto allo staccarsi dai genitori, che rispetto all'amore, che rispetto al proprio lavoro, eccetera. Quindi la possibilità di immedesimazione sono molte. Però penso piaccia il fatto di trattare questo tema con leggerezza, con affetto e con benevolenza, proprio perché tutti gli immaturi d'Italia possono sentirsi in qualche modo voluti bene da questo film. Non è un film critico nei confronti degli immaturi. Assolutamente. E ad Alberto Pellai è piaciuto in modo particolare. Alberto? Sì, io l'ho proprio visto, l'ho gustato. E te lo sei gustato, sì. È ricco di una sapienza psicologica. Secondo me la cosa bella e quasi terapeutica del film è questa. Cioè, racconta una serie di personaggi che sono sospesi tra la loro attuale immaturità, ma consapevoli della potenziale maturità che li sta aspettando lì dietro l'angolo. Cioè, loro la vedono la sfida evolutiva che hanno davanti a loro. Il film racconta la fatica di transitare dalla zona regressiva dell'adolescenza infinita a una zona impegnativa dell'adultità, e quasi tutti poi, e tutti anzi, fanno il salto alla fine. E il film fa vedere bene che è un passaggio faticoso, un passaggio di crescita, ma diventa anche necessario se vuoi prendere in mano la tua vita e diventarne un po' tu il pilota. Io ho in linea Attilio, Filippo, molti messaggi. Le amiche da casa mi scrivono e gli uomini intervengono. Allora l'invito è magari ad una Peter Pan donna, 800 24 00 24. Posso passare una telefonata ancora? Sì, Carmelo me la lascia. Allora vado da Filippo da Treviso. Filippo, buongiorno. Buongiorno, io volevo raccontare la mia esperienza, che io ho 34 anni, fino a un paio d'anni fa ero un Peter Pan, sì. E mi sono trovato, soprattutto da un punto di vista sentimentale, scappavo sempre fino a quando mi sono dovuto mettere un attimino in regola. E adesso, con fatica, il primo periodo soprattutto, adesso ne ho tratto molto vantaggio, sia dal punto di vista sentimentale naturalmente, anche dal punto di vista lavorativo. Prima scappavo sempre. Poi ho iniziato a dare dei nomi ai problemi che io non mi rendevo conto grazie alla mia compagna, e adesso mi sento comunque libero, molto più libero di certi problemi, e mi sento molto più maturo, ecco. Grazie a Filippo, noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. In linea Paolo Genovese, regista e sceneggiatore di Immaturi, e Alberto Pellai, che di maturità e di immaturità se ne intende parecchio. A tra poco. Essere e benessere. Siamo tornati insieme. Paolo, che cosa dicono di te i tuoi amici? Dicono che sei un immaturo, che sei un eterno ragazzino, che sei maturo, che sei, insomma, come ti descrivono? Perché spesso, almeno me ne rendo, lo sapevo un po', ne avevo la percezione anche da sola, ma molti messaggi me lo dicono, che noi scopriamo di essere un po' immaturi dai racconti o da quello che di noi ci dicono i nostri amici, no? Sicuramente, sai, la percezione di chi ci sta intorno, se la sappiamo comunque ascoltare o cogliere, poi ci riporta molte considerazioni su come siamo. Io in realtà anche io ho vissuto un periodo abbastanza da sindrome di Peter Pan, però è finito parecchi anni fa, nel senso che, per quanto mi riguarda, un grosso passaggio di crescita. Cioè mi sono sentito di levarmi i pantaloni corti e mettermi quelli lunghi quando ho avuto mio figlio, diciamo. Trovo che in qualche modo comunque la paternità, ecco, sia uno scossone, perché smetti un po' di preoccuparti di crescere e cominci a preoccuparti di far crescere qualcun altro, e quello necessariamente ti porta a prenderti più responsabilità. Sai che tu hai toccato un tasto, hai detto una parola, paternità, e a questa parola Alberto Pellai subito si accende, perché lui è un grande esperto, fa i circoli per i papà, li sta accompagnando, è stato uno dei primi in Italia proprio a rendersi conto che l'altra parte della coppia aveva bisogno di essere sostenuta, incoraggiata, supportata, forse perché non aveva modelli dalle generazioni precedenti. Alberto. Ma non c'è dubbio che abitare la propria paternità e in generale la propria genitorialità, saperla presidiare bene con intelligenza, con emozionalità matura, significa entrare nel territorio della maturità, perché come dico sempre, un figlio ti obbliga a pensare al per sempre, perché sarà per sempre tuo figlio. Puoi cambiare gli amori, puoi cambiare le case, i lavori, le città, non potrai mai cambiare il tuo stato di genitorialità. Ed ecco che quello è proprio un passaggio cruciale, un grandissimo salto nel vuoto, ma una delle avventure in assoluto più maturanti, ecco, che ti fanno più crescere. E Paolo ha detto: ho dovuto togliere i calzoni corti e sostituirli con quelli lunghi. E in linea con noi abbiamo Grazia Materia, che è costumista di Immaturi. Ciao Grazia! Ciao. Che bel lavoro che fai, Grazia. E riflettevo che immaturi non si nasce, immaturi ci si veste, eh? Insomma, il look ha la sua importanza. Qual è quello di questa generazione raccontata nel film? Ma insomma, questa generazione è un po' quella un po' della nostra generazione che non cresce mai, quindi con le scarpe da ginnastica, con i blue jeans anche un po' galanti come alla fine fanno i figli, con il colletto alzato alcuni, sì, della Lacoste, insomma un po' come ci si guarda quando... Grazia, che io ho Carmelo Lauricella in regia e Laura Vanossi che è in redazione da dietro il vetro, loro sono esattamente, io sono più grande di loro cadono esattamente nell'età dei protagonisti di Immaturi e sono non capisco perché sono paonazzi, perché sono paonazzi, è vero, sono vestiti come dici tu, eh? Però guarda, devo dire che io sicuramente so che sono più vecchia di tutti quanti, però nonostante i figli, perché io vado in paternità, io ho due figli abbastanza grandi, due maschi, e però devo dire, delle volte io mi sento ragazzina, li guardo e mi viene da dire, e l'immaturità è anche quella, anche nel vestire, cioè magari vedo le loro ragazzine, le loro fidanzatine, talvolta terribilmente mi guardo e dico oddio. È il momento in cui cambia un po' il registro, però insomma devo dire che... Senti, e Paolo Genovese come si veste? Beh, devo dire che Paolo Genovese ha insomma, dei tratti da grande immaturo, insomma, ha degli amori per dei giubbotti da moto, da ragazzino, tipo Fonzi. Paolo! Non è vero. Ogni tanto qualche piccolo esso, in realtà. No, ma io scusa, credo più a Grazia, quindi giubbottini alla Fonzi, poi sulle scarpe come va? Beh, anche sui jeans, sui pantaloni, insomma abbiamo messo dei pantaloni molto carini, molto belli a Paolo a un certo punto, a Luca, ma questi stupendi, questi li voglio assolutamente. Dai Paolo! Vediamo questo di Paolo. Ma sai, io non abbiamo mai tempo di andarci a comprare le cose. Grazia portava sul set questi vestiti meravigliosi e ogni tanto diciamo, insomma, dai, regalacene qualcuno, no? Dai. Dai maturi però, per cui insomma, il fascino, il look ha sicuramente il suo fascino. Io approfitto ancora di avervi in linea per dare la parola a Claudio che ci chiama da Bologna. Sì, buongiorno Claudio. Che jeans porta lei? Ecco, parlando, riprendendo il fascino, io ho 51 anni e vivo con questo detto, faccio cose seriamente prendendomi poco sul serio. Amo il giullare che è in noi, per cui mi scopro, avendo due figli, uno di 4 e uno di 15 anni, che in qualche modo essere giullare, essere clown affascina sia il mondo dei più piccoli ma anche il mondo degli adulti, per cui il bambino che è noi cresce nel giullare L'ultimo inciso, una foto che io ho messo in Facebook, è proprio a fianco un clown, perché amo questa rappresentazione anche di indumento. Non riesco e non posso per lavoro vestirmi da clown, e allora mi sono affiancato a un clown vero, che credo sia l'arte più alta del sorridere, ma anche di farci riportarci all'essenza dell'essere, proprio essere ludico e essere molto, molto divertito. Allora faccio cose seriamente, prendendomi poco sul serio. Alberto, questo è un messaggio, no? che potrebbe piacerci per il nostro consiglio di lettura, che dici? Ma sì, direi che è un'ottima sintesi. A me sembra che Claudio ha fatto tutto quello che doveva fare da adulto, e quindi adesso in questo momento sta giustamente coltivando anche la dimensione bambina. Io credo che il problema dell'immaturità sia rimanere bambini senza aver mai trovato a fare l'adulto qualche volta. Dai, allora a lui arriverà a casa l'elogio dell'immaturità. Grazie. Quando hai rivisto il Immaturi, che commento hai fatto? Beh, ho fatto, mi ha divertito tantissimo. Poi sai, i commenti di chi sta degli addetti ai lavori sono: ah, ecco, vedi, guarda, abbiamo fatto bene a mettere quella camicia, vedi che poi insomma, meglio così. Che quelli sono dei commenti tecnici, i ricordi legati a quel momento della scena che vedi girata, però poi vedi insomma la storia finalmente finita, cioè quello che tu pensavi fosse. E devo dire, quando io ho letto Immaturi, ho letto quello che ha scritto Paolo, esattamente mi immaginavo così, perché poi vedi tutto montato, quindi la storia ti scorre davanti agli occhi in immagini. Senti, ma dato che l'abito non è l'abito che fa il monaco, ma insomma sì, qual è il personaggio dei sei che ti ha dato, insomma, ha richiesto più impegno, no? nel scegliere il look? Voglio vedere se è quello che penso io. Nel senso che io non sarei stata capace, ma io non sarei stata capace a vestire nessuno, non che li avrei fatti andare nudi, ma volevo sapere da te. Così. Sai, l'impegno non è tanto la difficoltà, devo dire che non è tanto la difficoltà, quanto la difficoltà magari di fare collimare quello che è il personaggio con l'attore come è veramente, certo. No? Quindi insomma questa è la cosa più difficile, ma devo dire che non ho trovato delle grandi difficoltà, perché tutti si sono prestati con gioia a essere cambiati, a essere insomma un gran bel film, molto riuscito, e d'altra parte, no, è apprezzatissimo. Non è che stiamo dicendo quasi una banalità, ma intanto io vi invito ad andarlo a vedere, perché è un film suggerito anche da Alberto Pellai, quindi una sorta di film terapia. Ringrazio Paolo Genovese, Alberto Pellai, e ringrazio molto Grazia Materia, mi piacerebbe incontrarla. Vieni a fare un giro in redazione, perché così ci dici che i nostri look. Buona giornata a voi che ci avete seguito, appuntamento a lunedì. Essere e benessere.